Tanto buongiorno e buon anno a tutti, visto che era un po' che non ci vedevamo. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Questo tocco per Perisic che vuole liberarsi, ma fino in fondo, attenzione, Perisic col sinistro e non perdona sotto porta. Mauro Icardi, Ilicic vicino Borja Valero, Ilicic ancora una volta, per la seconda volta il gol dell'ex Josip Ilicic, 2-0. Con apertura verticale di Valdifiori, poi altro assist per Callejon che la mette in mezzo verso Insigne! 1-0 Napoli! Un gol pazzesco di Insigne! Dybala! Perfetta la punizione che porta subito la Juve in vantaggio all'ottavo di gioco. Il primo gol del 2016 bianconero lo firma Paolo Dybala. Pepe, la palla sul palo e poi Szczęsny compie un miracolo, ha dato il gol, la palla è entrata, ha fatto vedere sul suo orologio che la palla aveva varcato la linea, il pareggio del Chievo nella maniera più incredibile, è 3-3. Grazie, oltre a Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, grazie a coloro che dai microfoni di Radio 24 si ricordano di salutare anche noi radioascoltatori. Scriveva Fina qualche minuto fa, prima dell'inizio della nostra trasmissione. Noi non solo li salutiamo, li abbracciamo fortissimo tutti quanti, ma li convochiamo pure. 800 24 00 24, vero Pardo? Sì, proprio tutti convocati, che potrebbe essere anche un bel titolo per la trasmissione, pensaci, tutti convocati, potremmo chiamarla così, che dici? Ma non lo so, può essere un'idea, adesso ci riflettiamo io e Di Luca. Ragioniamoci. Comunque, va molto bene, le prime quattro rispondono tutte sull'attenti all'appello della Befana, Pierluigi, in modo diverso, ma tutto sommato convincente per tutte e quattro. Tu hai commentato la partita di Napoli, l'abbiamo sentito prima, gol di Insigne meraviglioso, peraltro. Sì. È anche vero che Napoli alla fine è un po' calato, però insomma, Juventus in ordine sparso, Juventus, Inter, Fiorentina e Napoli rispondono. La Roma, i soliti problemi, la solita gara un po' da psicanalisi. Il Milan, secondo me, niente di nuovo, posso dirti. Sì, è stata veramente una giornata che secondo me ha confermato quello che c'era prima. Insomma, spesso quando ci sono le soste, le interruzioni, si pensa sempre che cosa ci regalerà l'anno nuovo. Ecco, nella prima giornata del 2016 il campionato è rimasto fedele a quello che ci aveva detto dalla parte finale del 2015. La Juve ha vinto la Juve, avversario ovviamente modesto, e partita giocata a Torino, quindi tutto facile. L'Inter ha vinto la Inter, magari l'Inter della prima parte della stagione, quella un po' più sbiadita ma comunque cinica rispetto a quella che invece aveva mostrato. 1-0, gol del centravanti, capito, alla fine sono tre punti pesantissimi contro una squadra che era sicuramente in grande condizione. La Fiorentina ha vinto la Fiorentina, cioè facendo spettacolo, e il Napoli pure con qualche piccolo affanno, ma secondo me alla fine in maniera convincente e meritata. Quindi mi sembra che ci siamo. Per quanto riguarda la Roma siamo allo psicodramma, e per quanto riguarda il Milan siamo allo psicodramma al quadrato. Sì, serve Freud, come già aveva chiesto Mihajlovic qualche tempo fa. Ma guarda, anche lì, ieri guardando le partite in televisione, ero con Giorgio De Luca che può confermare, ho detto guarda che questa il Milan la perde, perché aveva tutta l'aria della classica partita che alla fine porta al gol dell'avversario. Solita partita triste, depressa e deprimente del Milan, un eccellente Bologna, e l'1-0 è assolutamente meritato. Poi, tra l'altro, tra le pieghe di questa giornata, e poi ne parleremo, ci sono tante altre cose, perché c'è il primo gol assegnato con la tecnologia a Verona contro la Roma, ed è stato il gol del esattamente 3-3. Un anno dopo il gol di Astori. Bravissimo, esattamente un anno dopo il gol di Astori, coinvolta sempre la Roma, a Udine in quel caso, e tu c'eri, mica male. Poi, sì. poi c'è, insomma, ci sono i tecnici traballanti, c'è Zamparini che licenzia Ballardini per una mezz'oretta. la sai, no? L'hai letta, l'hai sentita. Sì, sì, sì, sì. Pronto, Ballardini? Beh. Lei è licenziato, esonerato. Vabbè, poi ci sentiamo, ci mettiamo d'accordo. Bip, bip. Pronto, Iachini? Puoi tornare, per favore, in panchina? Sì, signor Presidente, ma io voglio dei giocatori, però, sul mercato. No, no, no, il mercato lo faccio io. No, aspetta, fai come se niente fosse. Pronto, Ballardini? Torni al Palermo. Ma questa follia. Certo. Insomma, è una follia, ma diciamo che è nello stile, insomma, no? Sono nuove frontiere attorno al tema dell'esonero, nuove creatività attorno al tema dell'esonero da parte di Zamparini. Io credo che lì l'errore sia stato fatto alla radice, nel senso che Iachini stava tenendo la barca in linea di galleggiamento, era molto amato dai giocatori, che non deve diventare un dogma assoluto, altrimenti... Vabbè, no, ma è un richiamo scritto quello comunque, cioè, sì, non oggi, ma... la democrazia assembleare, perché in certi casi i giocatori, almeno nel calcio, in certi casi i giocatori possono anche, se vuoi pensare male, amare un allenatore che però non porta risultati, no? Perché magari gli dà delle libertà, non è il caso di Iachini, dico in generale, quindi non è secondo me un criterio assoluto, però quando i risultati sono in linea e vedi che l'allenatore comunque è apprezzato dai giocatori, perché mandarlo via? Questo è il caso di Iachini. Ballardini mi sembra che non stia migliorando, anzi, la situazione. E la vera notizia, secondo me, è che sia pure solo pareggiando, Frosinone e Carpi hanno dato dei segni di vita, sì, e quindi dal punto di vista della classifica è cambiato poco, però insomma secondo me hanno messo un po' di pressione in più a Palermo e Genova, che devono rapidamente, secondo me, risolvere i loro problemi, che non sono pochissimi. Questo sì, ascoltatori informissimi, almeno quelli che scrivono, poi sentiamo anche quelli che parlano all'800240024, naturalmente. Quelli che scrivono... Che a me stanno scrivendo tutti che c'è un tema arbitrale sull'Inter, ne parleremo ovviamente. Anche ma di ne parleremo, sì. Sta nel contesto, no? Squadra... L'Inter ha vinto, come fanno le grandi squadre. 1-0 in trasferta, gol del centravanti e almeno un rigore negato all'Empoli, c'è chi dice 2. Ascoltatori molto in forma, dicevo, quelli che scrivono 349-238-6666, che vale per SMS e per WhatsApp. Volevo farmi convocare, scrive Luca, ma da quando Cerci ha eliminato i profili social, nulla ha più senso. Ha eliminato i profili social dopo aver ricevuto una valanga di insulti dopo la partita di ieri, quindi si è cancellato dappertutto, quindi nulla ha più senso, scrive Luca. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. La pressione c'è, insomma, una squadra quando si è in testa alla classifica la pressione c'è, ma è anche una cosa bella, si può anche sfruttare a proprio favore, quindi non è, insomma, la pressione c'è e va bene così, ma il problema era tornare alla vittoria dopo la sconfitta, dopo gli errori che hanno fatto con la Lazio. E... Questo era il Mancio, naturalmente, sto leggendo anche i WhatsApp, 349-238-6666. C'è chi mi scrive: hai ragione, gente, Mirante ha preso 7,5 perché è un bel figo, non perché il Milan ha tirato parecchio in porta. Poi ne discutiamo anche del Milan, credo che Mirante abbia preso 7,5 non perché è un bel figo, ma perché ieri ha parato bene, ma il Milan ieri ha costruito pochissimo e soprattutto non ha giocato da Milan. Ma torniamo all'argomento Inter, Pierluigi, con Andrea Sorrentino da Repubblica. Buongiorno. Ciao, buon anno a tutti. Come stai? Come stai? Vedo che interessate. Sì, ci preoccupiamo moltissimo delle tue condizioni psicofisiche, cioè, Sorrentino. Parte della categoria educazione. Come stai? Come va? Gentili, grazie. Benissimo, spero lo stesso per voi. Spero lo stesso per voi. Sì, sì. Eccellente. Guardo urlare al gol di Insigne, insomma. Sì. Dopo tutti questi convenevoli, di cosa vogliamo parlare? Facendo la pennichella e tanto svegliato questo il parliamo di questo mostro che comanda il campionato. Ci sono quattro squadre al vertice. Il mostro a quattro teste, dici? Sì, perché poi tutti ci chiedono chi lo vince lo scudetto. Non lo so, non lo può sapere nessuno, perché dovrebbe essere una squadra che ha la fase difensiva dell'Inter, il possesso palla della Fiorentina, la fluidità offensiva del Napoli e il senso del collettivo della Juventus. Invece queste sono quattro squadre che tutte quante esprimono dei talenti, esprimono però anche delle incertezze, delle imperfezioni ancora, e quindi sono tutte lì, e per vederle sgranare secondo me ci vorrà ancora un po', se non altro come minimo credo l'arrivo delle coppe, ecco, perché per questo mese di gennaio sarebbe un po' ancora speriamo, in ballo. Speriamo pure che non si sgranino, che restino tutti in gruppone. Da queste quattro uscirà la vincitrice dello scudetto, perché io alla Roma non ci credo più da un pezzo, ne stavamo parlando anche con Pierluigi, insomma, partita da psicodramma anche quella di ieri a Verona. Ragazzi, la Roma è un anno che da Roma ci dicono che la Roma è morta, è finita. Però dunque? È sempre lì, però è sempre lì. Lì dove, Andrea? È sempre lì, tra le prime o a ridosso delle prime. Adesso ha perso un po' terreno di nuovo, però la Roma è una squadra strana. Lo scorso anno per cinque mesi da gennaio in poi si disse che la Roma era finita, era in flessione. Poi è arrivata seconda ed è stata terza al massimo due. Non sento più Sorrentino, cascata la linea. Sorrentino, ci sei? Io no. Mi sento. Ah, allora è cascato Pardo, forse. No, dicevamo, allora, sì. Chi è caduto? Siete tutti in linea? Ci sono. Ah, ci sono. Io ho il telefono fisso oggi. Ho sentito dei rumori strani. Sì, la Roma è sempre lì, a ridosso delle prime. Il discorso è che l'anno scorso qualcosa era diverso, anzi tutto era diverso, era differente, perché dietro la Juventus c'era il vuoto, poi arrivava la Roma e dietro la Roma c'era il deserto. La tendenza della Roma mi sembra chiaramente declinante, lo era da novembre. Poi ci sono anche gli episodi, sicuramente. Ieri, insomma, la Roma ha affrontato la partita con un'emergenza completa, quindi secondo me dal punto di vista della prestazione ha fatto vedere anche delle cose interessanti, però ci sono dei segni che il campionato ti dà, oltre che degli aspetti pratici, perché comunque i due punti di ieri potrebbero pesare. I tanti gol subiti nel finale, il pareggio subito a Bologna, il pareggio subito a Torino, il pareggio subito ieri, sono tutti segni di una squadra che non è matura. La differenza tra le squadre che vincono e le squadre che si avvicinano a vincere è fatta dai dettagli. Però questi dettagli in questo momento sono tutti, no, tutti contro. Io voglio dire, sì, contro Roma. Questo è chiarissimo. Io voglio soltanto dire che, nonostante sembri a pezzi, la Roma è a 6 punti dalla prima in classifica e ha grandi margini di miglioramento se assesterà alcune cose. Quindi io continuo a considerarla nel gruppo anche lei, quindi secondo me non sono quattro ma sono cinque le pretendenti allo scudetto. Sono d'accordo, sono d'accordo ma ecco, la quinta attenzione. Io non sono d'accordo, ma comunque lo stesso. No, ma infatti io no, ma anch'io non sono d'accordo con me stesso. Ah, non sei d'accordo con te stesso, sì. Però alla fine della fiera questa è una Roma che è lì, è a pezzi, non ha difesa, ha un sacco di problemi, ha un allenatore probabilmente non apprezzatissimo dai giocatori e dalla società, eppure è lì. Attenzione. È lì perché migliora alcune cose. Comunque, allora ragazzi, allora facciamo così. Spiegaci invece il mistero dell'Inter. L'Inter vincerà il campionato? Io ho questo messaggio di Patrizio da Pistoia. Il gatto Inter sta scansando miracolosamente le auto sull'Aurelia, ma non per molto. Questo lo scrive Patrizio. Non lo penso io. Quanti rigori c'erano, Sorrentino? Quanti rigori c'erano a Empoli? Ce n'era uno e mezzo. Quello su Pucciarelli nel finale, senz'altro. Sì. Quello di Miranda nel primo tempo, sempre su Pucciarelli, credo, in barriera. Si poteva anche dare, anche se la palla era un po' lontanuccia, però la trattenuta c'è stata. Quindi un aiutino è arrivato ieri per l'Inter, come succede di solito alle squadre che hanno vento in poppa. Ricordo quando vincevano scudetti altre squadre, insomma, si diceva che faceva parte un po' del gioco ogni tanto avere qualche aiutino. Ma quindi, secondo me è anche vero, E infatti è vero. Trovatemi una squadra campione d'Italia o d'Europa o di qualsiasi cosa che non abbia avuto aiuti dalla sorte o dagli arbitri, e poi ne parliamo. È chiaro che le vittorie si costruiscono anche con queste cose. Senz'altro abbiamo rivisto l'Inter di settembre-ottobre, quella cifra stilistica lì, e quasi che loro si fossero un po' così scomposti e disuniti nel vincere un paio di partite 4-0 tra novembre e dicembre, l'avevamo vista contro Fiorentina e Udinese, si erano un po' snaturati quasi, infatti quello snaturarsi aveva portato all'eccesso di confidenza contro la Lazio e relativa sconfitta, quindi adesso sono tornati quelli di prima, tutti dietro. Ieri era un 4-1-4-1 in fase difensiva molto abbottonato, e poi sperano nella giocata offensiva che ieri è mancata, a parte quella di Cagliari. Però non è mancata fino del tutto, perché poi c'è stata l'Inter ha questa caratteristica, cioè l'Inter ha questa caratteristica. Io sono sempre convinto, ma come sensazione, che le partite contro le squadre di medio-bassa classifica, l'Inter non abbia grossi problemi a vincere, perché un gol prima o poi lo trova. A subire gol fa una dannata fatica, ovviamente è una notazione positiva, e dunque queste partite l'Inter le porta a casa, piacendo o non piacendo. Saverio dalla provincia di Varese, sentiamo cosa dice. Buongiorno. Ciao ragazzi, buon anno, grazie della convocazione. Dicci. Ma noi ce l'avamo già sentiti un paio di mesi fa sul tema Moviola, e ridendo e scherzando eravamo abbastanza d'accordo sul fatto che le reazioni della stampa quest'anno sembrano un po' diverse su questo tema. Io mi sono andato a riguardare ciò che era successo dopo Catania-Juve di 3 anni fa. Mm. C'era stato un gol della Juve con una gamba di Bentner in fuorigioco, si parlò di morte del calcio, di Moviola in campo, di una campagna per mettere la Moviola in campo. La mattina leggo Inter cinica, punto. In un trafiletto l'Empoli meritava un rigore, neanche due, uno. Mm. Quindi dunque? Sembra che te... eh? Dunque mi sembra che... cioè, a me va bene così, però non è che poi quando la Juve subisce il favorino, riceve il favorino, si riscatenano tutti. No, sono d'accordo, Saverio, però anche andare a riguardare Juve-Catania di 3 anni fa mi sembra vagamente curioso, ma nessuno lo dice, almeno da questi microfoni. Anche quella, Fatta anche quella, dove c'è casino. Che culo, Pardo. Ieri però c'è stata la doppia espulsione, una scena pazzesca. La doppia espulsione dei due allenatori. In contemporanea stereo. No, comunque, sì, ma questo è un vecchissimo tema, insomma, sul doppio pesismo, vero o presunto, che ti devo dire, secondo me noi facciamo il nostro, oggi diciamo che c'era un rigore e mezzo per l'Empoli. Un rigore sicuramente c'era, e credo l'abbia detto anche Sorrentino, che era presente sul posto. Insomma, non è che ci sia molto altro da aggiungere. Poi sicuramente insomma ci sono stati momenti di campagne mediatiche superiori dal punto di vista dell'intensità rispetto a quello che abbiamo visto oggi sui giornali, però questo mi sembra un dettaglio, francamente. Anche a me. Poi ci sono altre situazioni in cui l'Inter si è lamentata, cioè io faccio fatica onestamente ad oggi, in 18 giornate di campionato, a vedere un disegno, proprio non lo vedo. No, non lo vedo, ma non vedo neanche grandi polemiche. Vedo una serie di errori che ci sono, ma neanche polemiche violente. Comunque, quasi per compensazione, sono arrivate le designazioni arbitrali della prossima giornata di campionato. Inter-Sassuolo, per dire, tanto per anticiparvi una possibile polemica dei prossimi giorni, sarà diretta da Doveri, che è un arbitro con cui l'Inter ha vinto una volta su 7, credo. Quindi, insomma, e quindi potrebbe essere, diciamo, un arbitro... Potrebbe essere la volta buona, dici? per avere grandi polemiche arbitrali. Anche il tema del condizionamento è un tema abbastanza difficile come lettura, no? Nel senso che quando c'è un arbitro che ha avuto un problema arbitrale grosso con una squadra, e poi non sai mai se l'eventuale condizionamento possa essere un condizionamento ancora negativo, oppure possa esserci invece disegno un condizionamento opposto, positivo, proprio per dimostrare che non aveva niente. Insomma, recentemente abbiamo visto il ritorno di Rocchi contro la Roma in occasione di Bologna-Roma, anche lì con polemiche, ma polemiche più che altro sul fatto che non si potesse giocare su quel campo, insomma, che Rocchi in quella partita ha fatto degli errori, ma ne ha fatti da una parte e dall'altra. Quindi anche questo tema qui di Doveri e della una sola vittoria su 7 partite, insomma, alla fine lo si può leggere in un modo o nell'altro. Per me l'Inter rimane un po' il mistero, lo dico perché mi sembra una squadra con dei margini di miglioramento enormi. Sì. E quando una capolista dopo 18 giornate, senza aver speso molto, senza avere le coppe, con una quantità di giocatori così profonda, una rosa così profonda, è comunque lì davanti a tutte, secondo me deve essere considerata. Ma mister, a un certo punto, com'è. Pierino, perché secondo me è uno splendido lavoro di Roberto Mancini, ma non solo in panchina. Io ho la sensazione che, guarda, la differenza tra il Milan e l'Inter stia nel fatto che l'Inter ha trovato, pur in un assetto societario ancora da definire, con un proprietario lontano, eccetera, eccetera, abbia trovato l'uomo che comanda sia sul campo che nella stanza dei bottoni, e questo è Roberto Mancini. Rispondiamo insieme a Roberto dalla provincia di Grosseto, poi salutiamo Andrea Sorrentino. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Senta, innanzitutto una... caloroso saluto a Pardo, perché è l'unico che in tutti questi anni ha sottolineato qualche giorno fa il fatto che contro il tifo napoletano negli stadi si scateni qualcosa in più, qualcosa di più che una forma semplice di protesta. settimane, quindi mi fermo qui e lasciamo stare, sorvoliamo. Per quanto riguarda il resto del discorso dell'ascoltatore precedente, per quanto riguarda il rigore non dato all'Empoli, non vorrei fare polemica, ma vorrei sottolineare una cosa molto strana. Nella trasmissione di Sky di ieri, nel post partita, non è stato fatto il minimo accenno al calcio di rigore, non è stata mostrata una immagine. Mancini, che a Napoli ha alzato un polverone allucinante, questa volta non ha battuto ciglio. Cosa reiterata, perché oggi pomeriggio a Studio Sport su Italia 1, uguale. Nemmeno l'azione del rigore mostrata, nemmeno un accenno. Dunque, è questo che colpisce. Dunque campagna televisiva contraria, cioè favorevole all'Inter, è questo che vogliamo dire. Sorrentino e Pardo, rispondete. Io sinceramente ieri ero ovviamente sul campo, non ho seguito il post partita di Sky, mi sembra strano che non abbiano parlato di un episodio della Moviola così grosso. Posso soltanto dire che su tutti i giornali del regno oggi l'episodio è ben viene spiegato, segnalato, ben sì, viene segnalato, sì. Viene segnalato. Esatto. Bene, allora Pierluigi, volevi aggiungere qualcosa? No, io posso soltanto dire che nella mia ormai decennale, no, quasi 20, mamma mia, sono quasi 20 anni che faccio. Sei vecchio, dai, io non ho mai, ma lo dico sinceramente, poi la gente potrà chiedercelo, non ho mai ricevuto un'indicazione da un direttore, da un caporedattore, da nessuno, sul non mostrare mostrare. Ve lo giuro, ero distratto e non ho sentito, ma questo è successo, cioè questo non è successo a Sky, non è successo a Mediaset. Poi sono d'accordo sul fatto che magari in certe circostanze si creano delle polemiche arbitrali molto più forti e molto più profonde rispetto ad altre situazioni. Su questo è indiscutibile, quindi capisco il ragionamento che hanno portato avanti già due ascoltatori. Sì, noi stiamo parlando ovviamente anche di questo, quindi certo Pierluigi, noi stiamo parlando di questo. Censure. Sorrentino giustamente dice su tutti i giornali del regno oggi è scritto che ci sono questi episodi, cioè vogliamo dirlo 100 volte, vogliamo farlo vedere 50 volte, non lo so, poi questa è una scelta che può piacere ad alcuni, ad altri meno. Andrea Sorrentino, grazie. Pierluigi Pardo aspetta. Borsa, torniamo subito. Tra poco seguiremo tutto. Prima però, spot per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Sì, diciamo che il mister a fine primo tempo mi ha strigliato un po', perché da me si aspetta di più di quello che avevo fatto nel primo tempo, ma anche ha strigliato tutta la squadra, ecco, non solo me. E diciamo che il secondo tempo abbiamo visto un Bologna diverso, e un Bologna che ha avuto più di un'occasione per segnare, quindi diciamo che alla fine, dopo è arrivato il gol, e contenti tutti. Questo era Giaccherini, che ha giustiziato il Milan. Dicevo, vittoria meritatissima per il Bologna ieri a San Siro, e guardando la TV io l'avevo anche pronosticata. Abbiamo l'allenatore del momento, indiscutibilmente, collegato con noi, tra l'altro ospite poco tempo fa di Pierluigi Pardo a Tiki Taka. Roberto Donadoni, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno mister. Pardo, a te la prima domanda. Come vuoi che vada. Come si festeggia una vittoria a San Siro? Niente, no. Così, no, ma non c'è molto da festeggiare. Noi abbiamo qualche obiettivo ben più importante di una semplice gara, anche se chiaramente ieri è stata importante sotto tutti i punti di vista, però sempre coi piedi per terra e guardando quello che è il nostro obiettivo finale. Roberto, quell'applauso di San Siro tutto unito ha molti significati, mille significati. Sei d'accordo? No, un grande significato dal punto di vista affettivo per me, perché è estremamente gratificante, che va veramente oltre ad ogni risultato sportivo raggiunto poi sul campo, ma queste dimostrazioni di affetto e di stima reciproca mi riempiono veramente di grande orgoglio e mi fanno sentire, scusate il gioco di parole, ancora più orgoglioso di essere stato e di essere tuttora un tifoso rossonero. Sì, vedi, tutti i giorni io e Pardo conduciamo questa trasmissione e non manca giorno che un tifoso del Milan chiami e dica: ma perché il Milan non ha preso Donadoni? È inutile girarci intorno, Pierluigi, tu lo sai benissimo, eh? Sì, sì, sì, sì. Non so che ne pensa Donadoni, non so che cosa voglia di dire in proposito, però è abbastanza lavoroso, no? Io non ho assolutamente nulla da aggiungere a quanto detto anche ieri. Insomma, il Milan ha una grande proprietà, una grande storia, e quindi ha tutto il diritto di fare ciò che ritiene più corretto, più giusto. Poi tutto il resto sono chiaramente quei discorsi che entrano a far parte un po' della sfera, come dire, anche di un sentimento da parte di chi quei colori continua ad appoggiare, no? Però insomma, è giusto che le cose vadano come vanno e che ognuno rispetti quelli che sono i ruoli, dopodiché quello che sarà il futuro soltanto Dio sa cosa riserva. E per me oggi è importante fare bene in questa realtà, che è una grande realtà, è un'ottima realtà, indipendentemente dagli risultati che stiamo ottenendo ora. Sappiamo che comunque c'è ancora tanto e molto da fare, ma ci sono tutte le premesse per far sì che si possa fare e tornare ai vecchi fasti, la tradizione importante come ha sempre avuto Bologna. Sì, non c'è dubbio sul fatto che non sarai Harry Potter, come disse un giorno Mourinho, però Bologna l'hai cambiato totalmente. Insomma, io credo che la capacità di un allenatore debba essere un po' anche questa, insomma, riuscire a incidere un po' su quei tasti che magari nel recente passato non hanno dato i frutti che tutti quanti speravano, e quindi aprire un po' la mente di tutti e vedere di tirar fuori il meglio possibile. Io credo che il valore aggiunto di ogni squadra sia proprio questo aspetto, l'aspetto psicologico, è anche probabilmente il più delicato e più complicato da riuscire a sondare, però piano piano cerchiamo di fare quello che è nelle nostre capacità. È un sacco di messaggi. Giaccherini è da nazionale? Europeo? Giaccherini ha tutto per far sì che possa essere chiamato e convocato, ma come giustamente lui ha detto, è un giocatore da quale è lecito ed è giusto aspettarsi qualcosa di più di quello che può fare un normale giocatore, perché lui rientra in una schiera di giocatori che ha indubbiamente qualche qualità in più, e quindi da lui mi aspetto molto, e il suo percorso quest'anno sarà fondamentale per far sì che si possa garantire una convocazione all'europeo. E anche destro, io continuo a pensare sia uno da nazionale, assolutamente sì. Cosa gli manca ancora? No, ma io direi che adesso sta trovando anche una certa continuità nelle prestazioni. Quello che ancora un po' gli manca è la continuità settimanalmente nel lavoro, perché ha avuto 2 o 3 problemini che l'hanno un po', come dire, fatto lavorare in maniera ridotta, e questo è importante, fondamentale per un giocatore. Quindi trovare nella quotidianità giusto equilibrio poi ti permette di fare performance la domenica di un certo livello, e lui questo piano piano ci sta arrivando. Poi dal punto di vista delle qualità sono veramente di assoluto livello. Sì, abbiamo sentito prima Giaccherini dire nell'intervallo: il mister ci ha strigliati, non solo me, in particolare me, ma tutta la squadra. Vuol dire che anche il mister Roberto Donadoni aveva la stessa impressione dopo il primo tempo, cioè che era un Milan battibile quello di ieri, che era una partita da vincere quella di ieri. Che era una partita che era la nostra portata sicuramente, sì. dove però al di là di fare delle valutazioni in merito all'avversario, quello che mi premeva e che continuo a sottolineare ai ragazzi è la chiave di lettura deve essere rivolta a noi stessi. Poi dopo è chiaro che tu hai un dirimpettaio con il quale devi misurarti e fare i conti, ma tu devi esprimere tutti i tuoi valori, mm-hmm. e noi non lo stavamo facendo in pieno. Mm-hmm. D'accordissimo. Pierluigi, hai una domanda ancora per il mister? La domanda è: l'allerta per quanto riguarda il Bologna è scesa, no? A che punto siamo arrivati? O bisogna fare delle frasi fatte, dire no, 40 punti, c'è sempre allerta? Senza scadere nelle solite frasi di circostanza, ma l'allerta deve esserci sempre, nella misura in cui noi siamo una realtà e una squadra che del resto basta vedere un po' ieri quanti dei giocatori in campo avevano già calpestato quel terreno, no? E quindi questo a significare che noi abbiamo bisogno di essere sempre al top, sempre al meglio, al massimo. Quando questa squadra appena comincia a credere un po' di poterci stare tranquillamente, irrimediabilmente cade nel tranello e quindi si perdono poi le partite. Noi non possiamo fare questo errore, perché vorrebbe dire poi dover ricominciare ogni volta e ripartire è sempre difficile. Sì, un'ultima cosa, Roberto, da parte mia, riguarda due squadre azzurre che tu hai allenato, il Napoli e la Nazionale. Quanto ci credi al Napoli in prospettiva campionato e alla Nazionale di Conti in prospettiva europeo? Ma in tutti e due i casi direi un po' alla pari. Credo che abbiano entrambe le carte in regola per potersela giocare fino in fondo. Poi vincere un europeo, vincere un campionato è legato poi anche a mille altre cose. Certo. Però indiscutibilmente hanno le carte in regola. Grazie mister. Grazie. A voi, buon pomeriggio. Grazie Roberto. Ciao, Donadoni. Mille messaggi su Donadoni, che è il più bravo allenatore italiano quando viene alla Roma, sul fatto che sarebbe stato applaudito calorosamente anche se il Milan fosse stato primo in classifica, sul fatto che ogni volta che sento parlare Donadoni da milanista quasi mi commuovo e mi incavolo con la dirigenza rossonera, eccetera eccetera eccetera. WhatsApp 349-238-6666. Abbiamo anche moltissimi ascoltatori in linea, 800-24-0024. Maurizio da Torino, poi il traffico. Pronto? Pronto Maurizio, buongiorno. Salve, buongiorno. Senti, io sono tipo del Toro e volevo sapere cosa ne pensavate di questo Quagliarella che segna e non esulta e va bene, ma chiedere anche scusa davanti a uno stadio che ti fischia, che comunque è una situazione che siamo noi, per carità, non pericolosissimo, ma insomma, non si vince da un po', appunto, mi sembrava una cosa un po' stucchevole. Sì, tutto sono qua. D'accordo. Io sono perfettamente d'accordo. D'accordo. Guarda, sulla situazione di Quagliarella, però mi permetto di dire una cosa: capisco perfettamente il fastidio dei tifosi del Torino, e in generale io trovo assurda questa cosa già del non esultare. Mi sembra proprio l'antitesi del calcio. Perché allora, se non devi esultare, a questo punto tira fuori apposta, cioè mi potrebbe venire il sospetto, no? Sto chiaramente facendo una provocazione. Voglio dire, se tu giochi in una squadra e dai tutto te stesso, poi nel momento del gol, ma perché non devi liberare la tua gioia? E in questo secondo me ci vuole maturità anche da parte dei tifosi nel capire tutto questo. E dei giocatori, per decreto imporrebbe l'esultanza certo. Nel caso di Quagliarella ti posso dire, per esperienza personale, per confidenza, non dico nulla di nuovo, lui ci è rimasto molto male, cioè il tasso di Napoli per lui è veramente un dente avvelenato, nel senso che lui è andato via perché non aveva trovato tanto spazio, non è che è andato via da solo chiedendo in tutti i modi di andarsene perché si trovava male, di andare alla Juve perché il suo sogno era quello di... Lui è tifoso del Napoli, ha vissuto una stagione con il Napoli così, per una serie di esigenze anche societarie che in qualche modo hanno coinciso anche con le sue professionali, è andato via. Quindi poi aver visto Striscione col 71, altre cose, insomma, che nella cabala napoletana, diciamo, non è una cosa proprio simpatica, e gli hanno fatto male. Per cui questo secondo me lo ha portato ieri a fare questo gesto che francamente ritengo eccessivo, nel senso che uno non è che deve chiedere scusa, però è proprio perché secondo me lui su questo anche, tema scusa, qui scusa Pier, anche per rispetto ai tuoi nuovi tifosi come l'ascoltatore che ci ha chiamato, ma sono d'accordo su questo e in generale comunque mi sento veniva da un periodo difficile, non segnava il 20 settembre, ma mi sembra un giocatore che comunque non ci sono dubbi che stia dando tutto quello che ha per la causa Granata, quindi da questo punto di vista non credo possa essere accusato poi di scarso impegno. Poi c'è chi dice anche che a Quagliarella non è stato perdonato da parte dei tifosi del Napoli il fatto che quando è andato alla Juventus disse la Juventus è un passo avanti rispetto al Napoli eccetera, però insomma rimane il discorso di fondo che a me i giocatori che non esultano quando segnano con la loro nuova squadra piacciono relativamente come atteggiamento. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Come parte abbiamo un sacco di ascoltatori che ci stanno chiamando, 800-24-0024. Walter da Trento è uno, è il primo di questa nuova parte. Walter, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno. io chiamo da milanista un po' deluso, ma fino a un certo punto, devo dire la verità, perché la pensa come Bonaventura, che ha detto 28 punti è quello che ci meritiamo. Esattamente, nel senso che gli obiettivi che si pone la società, che sono troppo per una squadra che è di mezzo a classifica, lo sapevamo prima, quando abbiamo visto la campagna acquisti, quando vediamo come si comporta la società, eccetera, è una società da mezza classifica, non è più quella che era prima. Berlusconi si sta diventando un Mezzamparini, Gagliani sembra che sia il direttore tecnico del Borgorosso Football Club, quindi cosa si vuole pretendere? Questo è il Milan. Cosa vuol non dire si che... sta comportando come Zamparini? Ma scusi, quattro allenatori in quanti anni? Due anni e mezzo? Dal punto di vista degli allenatori presi e lasciati, in questo senso. Zamparini fa molto meglio. Fa cose un po' diverse. Sì. Altra categoria, direi. Però io non sono d'accordissimo. Cioè, che il Milan non sia da scudetto sono d'accordo. Però che il Milan debba avere qualcosa in più e complessivamente ad oggi, per il potenziale che ha a disposizione, sia una stagione comunque di basso profilo, io credo che non ci siano dubbi. Quindi secondo me Mihajlovic ci deve dare di più. Poi è ovvio che c'è anche l'elemento dell'imponderabile, no? Perché sicuramente ieri Milan le occasioni le ha costruite, nessuno discute, qualche occasione l'ha costruita, ma dal Milan ti aspetti di più. Questo è un momento nel quale poi si è innestato un meccanismo perverso, un meccanismo negativo, per cui se una cosa può andare male, andrà male. Questa è la mia sensazione. Però le responsabilità tecniche ci sono, dai, sì, lo sa anche Mihajlovic, cioè io guarda, secondo me di Mihajlovic sì, per pensare sì, che non si sì. renda conto che le cose non stanno andando perché possa pensare magari, di essere soddisfatto. Io però continuo a pensare che il problema sia a monte, cioè sia nella scarsa chiarezza che in questo momento c'è in società, ma questo è un discorso che se vogliamo può accomunare il Milan alla Roma. A Roma una proprietà lontana, poche certezze qui, allenatore variabile, un giorno sì e l'altro no. Al Milan è un po' la stessa cosa, cioè grande confusione nell'orizzonte societario che si ripercuote sulla squadra. Io saluto Beppe che ci sta ascoltando dalla Thailandia, beato lui. Grazie. E Beppe, Thailandia? No, Francesco da Caserta. Beppe da Thailandia scrive. Francesco, okay. Buongiorno. Buongiorno. Io intervengo per il Milan. Premetto che sono un tifoso da 40 anni, ho 47 anni. E ho tifato sempre Milan, anche e soprattutto quando si è andato in Serie B. Ma nei primi sette? Nei primi sette non guardavo calcio, non guardavo la TV. Non sai che ti sei perso in questi sai che anni. Ti sei perso, Francesco. No, io ho iniziato a fare il tifo per il Milan dal 75. Diciamo così che poi sono del 68, quindi non è che ricordo poi tutto. Ah, certo. Io credo che innanzitutto debba finire l'epoca del mecenatismo. Perché oramai bisogna guardare alle squadre di calcio come delle aziende. E in quanto tali, se un manager sbaglia una volta e sbaglia due volte, il presidente deve avere il coraggio, anche se si tratta di suo fratello, di allontanarlo. Stiamo parlando di Galliani? Galliani. Perché Galliani ha fallito la sua ultima gestione, diciamo, i casi più eclatanti, Pogba. Pogba che il Milan poteva prendere per €1 milioni e non lo ha preso. Poi si è verificata la guerra intestina con la signora Berlusconi. Le macchiette poi, che Pato stava con lei, vabbè, lasciamo perdere. Beh, insomma, in quel caso specifico Galliani era riuscito a prendere Tevez costruendo un castello di carte che neanche il mago Zurlì. Esatto. Galliani ha fatto un sacco di operazioni, lo stesso Ibrahimovic era stato preso dal Barcellona in comode rate semestrali, mensili, annuali, non ricordo bene. Insomma, qualcosa Galliani l'ha fatta. Direi che in questo momento c'è un grande scollamento tra le varie componenti della società. Quindi non si sa bene il Berlusconi, quasi ottantenne, che cosa voglia fare. Non si sa bene dove sia finito il potenziale acquirente. Ci sono due amministratori delegati. Lo stadio è saltato. Direi che è una... in questo momento è una nave grosso modo senza controllo, con delle difficoltà, però dal punto di vista tecnico secondo me è una squadra migliore della sua classifica in questo momento ed è secondo me stato fatto un mercato comunque di prospettiva interessante. Non è tutto da buttare, no, appunto per questo secondo me i conti non tornano perché secondo me non c'è tutta questa differenza rispetto alle squadre che sono davanti. Non c'è tutta questa differenza. Senti Pierluigi, ti faccio sentire il podio delle voci della domenica, poi mi dici quali preferisci. Vai. La prima è del nostro ospite di prima, e cioè Donadoni. È vero che adesso a Bologna ti chiamano Donadrone? Adesso, ma oltre alla risata, adesso ci sta anche questo, quindi è tutto qualcosa di più. Cioè, tu hai portato il drone in allenamento e questo pare che sia la base dei risultati del Bologna. Assolutamente sì. Sì. E quindi tutto fu per un drone. Sentiamo anche Hamsik su giri di campo compiuti e magari vissuti in maniera un po' polemica contro l'Inter e ieri ripetuti. Questo ulteriore giro di campo evidentemente significa molto, perché voi non avete paura del rapporto con i tifosi, ma soprattutto di dire che di poter festeggiare una vittoria importante, no? Perché non si potrebbe, è bello vincere, è bello festeggiarlo con i tifosi, quello è tutto, lo facciamo per loro. E infine Allegri e il Morata triste. Triste non deve essere, perché lo dico sempre, più uno è triste più è difficile che le cose le vadano bene. Morata è un giocatore che in questo momento non sta facendo gol, ma anche l'anno scorso ha avuto lo stesso cammino, nella seconda parte di stagione è risultato un giocatore determinante. Quale ti piace di più per Luigi? Per chi voti? Voto per Hamsik, perché credo che sia il tema più interessante, con tutto rispetto per il drone di Donadoni e per Allegri, perché secondo me è un tema che si lega alla nostra vita e in generale al fatto di esultare, festeggiare man mano che le cose succedono, oppure aspettare scaramanticamente in attesa di un risultato finale. Tante volte chi festeggia prima poi si ritrova a non festeggiare alla fine, però intanto si è goduto una gioia. Io credo che sicuramente il Napoli deve dare una dimostrazione di maturità e di abitudine alle vittorie, su questo non c'è dubbio, perché è una squadra che ha vinto relativamente poco, una città che ha vinto relativamente poco negli anni. È anche vero però che queste cose qui secondo me non c'entrano niente col fatto di esultare sotto la curva dopo una vittoria. Non ho visto niente di particolarmente diverso da quello che vediamo fare dalla Juve da 4 anni a questa parte, con tutta una serie di corse sotto i settori. È molto più importante, molto più non si giudica da questi aspetti l'abitudine a vincere di una squadra, che però è il tema del Napoli, è il tema della Fiorentina, è il tema della stessa Inter, cioè di squadre che si affacciano oggi qualitativamente con la possibilità di poter portare a casa un grandissimo risultato, ma non sappiamo ancora se sono pronte da un punto di vista di abitudine. Saro da Siracusa, poi salutiamo Pardo. Saro, buongiorno. Buongiorno, io questa volta intervengo da tifoso fiorentino. Altre volte l'ho fatto parlando di altri temi, la prima volta parlando di Mero, e il problema, non so se lo ricordate, sicuramente no, però io parlavo di Melo in quanto secondo me l'Inter, dopo quelle 5 prime partite vincenti con un centrocampista, cioè con un centrale come Melo. Ma oggi da Juventino che cosa vuole dire? Ma oggi da Juventino voglio dire che di segnalarvi un aspetto importante. Le prossime due partite per la Juventus saranno secondo me determinanti, perché superate quelle due partite, che sono due trasferte che ci vedranno prima a Genova e poi a Udine, si apre una nuova fase di campionato per la Juventus, perché diciamo che il proseguo del campionato vedrà soltanto 7 volte la Juventus giocare fuori casa, e di queste 7 trasferte 5 volte giocherà con Chievo, Frosinone, Verona. No, ma il calendario della Juventus nel girone di ritorno è piuttosto favorevole, avrà tutti i confronti diretti in casa o quasi, no, Pierluigi, quindi è chiaro che con questo equilibrio ogni partita è una banalità, ma diventa determinante. Sì, Juve-Verona non è una partita secondo me che può dare una misura, con tutto rispetto per il Verona, esatto, una misura. Secondo me già quello che succederà domenica contro la Samp, una Samp nettamente in ripresa, è un ulteriore e importante segnale. La Juve le ultime due partite le ha vinte col Carpi e con il Verona, e adesso arriveranno i test nettamente più impegnativi, la Sampdoria, l'Udinese, poi ci sarà Juve-Roma. Ecco, se la Juve dovesse fare filotto nelle prossime 3 partite, allora qualcuno potrebbe anche pensare che era semplicemente una ricreazione durata 10-12 giornate e che la Juve è nettamente sopra tutte le altre. Altrimenti, e poi bisogna capire quanto la Juve in queste 8 vittorie consecutive ha speso dal punto di vista fisico. È chiaro. C'è stata anche la sosta di mezzo. Ci vediamo stasera in TV? Cioè, ti vedo stasera no, in TV? No, stasera no, è giovedì. Niente. Lo so, anzi approfitto per dire, niente di chitarra, ragazzi, dai, stasera andate al cinema. Tutti al cinema. Ciao Pierluigi, sentiamo domani. Oh, guardare quello, fare quello che pare. Saluto. Ciao. Sentiamo dopo il GR. Ciao Parto, ti voglio bene. Tutti convocati. Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it. Si ricomincia! Tutti convocati. Proprio che dice quello che ha detto anche ai miei ragazzi, dice: un leone non perde sonno per opinione di una pecora, un leone se la mangia. Il leone perderà il sonno adesso e le pecore chi se le mangia? No, il leone non perderà sonno. Non è quello il problema, dobbiamo cercare di rimanere sereni, tranquilli, continuare a lavorare sapendo. Mi dispiace per i ragazzi, mi dispiace per i tifosi, perché hanno fischiato, è giusto, perché nessuno può essere contento con questo. Mi dispiace per la società, è tutto, però andiamo avanti, vediamo quello che succederà. Però penso che se abbiamo 28 punti siamo questi, ecco, quindi siamo una squadra che deve lottare, che non è sicuramente fra le prime, non bisogna illudere i tifosi, non bisogna illudere nessuno. Adesso abbiamo la Coppa Italia, la possibilità di arrivare in finale e continuare a lottare per il campionato, questo è quello che dobbiamo fare. Tra leoni, pecore e affermazioni di grande realismo come quella che avete sentito per ultima di Jack Bonaventura, Arianna Ravelli del Corriere della Sera, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno, che succede adesso? Carpi e Roma sono gli ultimi test per Milano. Sì, penso proprio di sì. Oggi devo dire, credo che non succederà nulla, anche se il presidente Berlusconi ieri era particolarmente agitato e deluso e arrabbiato per la prestazione, per i cambi, per tutto, insomma, credo, veramente Mihajlovic ha rischiato anche di essere cacciato subito. Invece con ogni, insomma, il tempo gioca a suo favore, naturalmente giocando il Milan sabato sera, quindi insomma domani è già vigilia di partita. Direi che a questo punto gli appuntamenti sono quelli che hai detto. La partita di Coppa Italia ovviamente è la più importante della stagione, perché il Milan ha un teorico cammino non difficile, insomma, verso la finale di Coppa Italia, e quindi è chiaro che quella sarà la partita decisiva. Vediamo intanto come va a Roma e poi i discorsi andranno riaggiornati tutti, insomma, si naviga a vista, tanto per cambiare. Senti, ma così a sensazione, la squadra sta ancora con l'allenatore, parliamoci chiaro. Sì, secondo me sì, non è quello il problema, cioè che forse sarebbe sin più grave, nel senso che, come ha detto Bonaventura, un po' la squadra è limitata, insomma, ha dei limiti, e parlare di Champions era un obiettivo non realistico, fuori portata, che la società si è data ancora nell'illusione di poter rincorrere i grandi traguardi cui il Milan è abituato, senza rendersi conto che invece non siamo a quel punto. 86 milioni non sono bastati, ecco, per riportarsi a parlare di quei traguardi, e qui insomma sono in tanti che devono interrogarsi, non solo Mihajlovic, il quale ha le sue colpe. Il Milan gioca male, non ha un'organizzazione con le squadre. Anche ieri in casa col Bologna le cose migliori le fa in contropiedi, perché questa è una squadra così, sì. È una squadra che non ha neanche particolare personalità, non ha neanche particolare cattiveria agonistica. Esatto, questa è la parte, perché che le squadre di Milan Mihajlovic giocassero così non è una novità, però avevano dall'altra parte grande tenuta difensiva, grande grinta, grande carattere, grande personalità. Questa è una squadra che dopo tutti questi mesi nemmeno assomiglia al suo allenatore. Questa è la cosa più grave in assoluto, secondo me. Cioè, ci sta che la squadra di Mihajlovic giochino in questo modo, perché anche la Sampdoria giocava così, con certe caratteristiche così simili. Il problema è che mancano anche le caratteristiche positive, cioè quelle che dovrebbero rispecchiare il carattere dell'allenatore. Questa feeling, questa simbiosi non c'è stato, non è riuscito a trasmettere neanche questo, perché la squadra ha ancora paura. Non, poi adesso che San Siro è diventato, come dire, particolarmente ostile, le cose sono peggiorate. Questa è una squadra con poca personalità, con molta paura, e come si è visto nei momenti decisivi, quando insomma ci sono giocatori che si sono proprio spaventati. Cerci è proprio emblematico, sì, no? Chiaro. E quindi questi, insomma, le responsabilità sono diffuse. Nessuno può chiamarsi fuori, nessuno può ma può io continuo a pensare che i problemi nascano a monte, cioè dalla società che in questo momento è particolarmente scollata. Quindi nessun allenatore potrebbe fare diversamente da quello che sta facendo Mihajlovic, da quello che ha fatto Inzaghi, da quello che ha fatto Seedorf, l'ultimo Allegri. Mi sembra sia un filo conduttore il Milan sotto queste tre diverse gestioni. Cioè, non mi sembra di vedere delle differenze. È chiaro che se cambi quattro allenatori e vedi certi problemi, certi temi ripetersi, insomma, chiunque potrebbe venire il dubbio che forse il problema non è solo l'allenatore. Poi io sono anche, credo che con un allenatore diverso e top, che il Milan dopo Allegri non ha più avuto, mi riferisco a un Conte, questa squadra potrebbe avere più punti, ma questo non toglie che questa è una situazione dalla quale si riparte solo riazzerando vuol dire facendo tabula rasa e ripensando l'organizzazione dai vertici societari fino ai giocatori. Cioè non c'è altro dopo tre anni così non c'è altro modo che non, perché prima fino all'anno scorso si poteva dire ma Berlusconi non mette i soldi, quest'anno li ha messi. Ok, quindi gli allenatori sono stati cambiati, degli acquisti sono stati fatti, il prodotto non è cambiato. Il prodotto non cambia, purtroppo, ma lo dico ma senza, come dire, particolare accanimento verso nessuno, questa si riparte solo facendo tabula rasa. Parlo sia di giocatori, di squadra, cioè è come quando Mancini dice, quando Mancini all'Inter adesso ne servono 11, ecco, cioè è la stessa cosa, bisogna riazzerare. Dai vertici societari alla squadra. Sono d'accordo, ma guarda, quello che penso io è che la situazione del Milan non sia poi tanto diversa da quella della Roma, grande confusione societaria, un proprietario che in quel caso sta in un altro continente, in questo caso non è più particolarmente coinvolto per mille ragioni nelle vicende del Milan. L'Inter ha trovato l'uomo guida proprio in panchina in Roberto Mancini, cosa che il Milan non ha in questo momento. Un'ultima cosa, sempre fuori dai denti: Mihajlovic andrà via prima o poi, non so se a fine stagione o molto prima. Oggi leggo sul tuo giornale due nomi, Brocchi e Lippi, sono due profili totalmente diversi. No, ma si pensa di metterli entrambi, cioè di farli, è un ticket, quindi, ed è chiaramente però una soluzione di ripiego, di transitoria per questi, nel caso di un cambio in panchina di adesso. Secondo me, cioè, se mi faccio la domanda mi do la risposta, se mi chiedi se ha senso ti rispondo poco, e ha senso solo se si vede che la squadra sta mollando l'allenatore e quindi si vuole dare una scossa. Certo. Allora a quel punto ha senso farlo prima della gara decisiva, che è quella col Carpi. Sì. Se invece non si pensa che la squadra sia contro Mihajlovic, io questo non credo, penso che siano piuttosto risorse siano scarsi, ma non che siano contro alcuni, ovviamente, non tutti. Sì. Ma insomma, non credo che siano contro, allora a quel punto mi pare una soluzione che abbia poco senso. Certo. Quello che invece ha senso, potrebbe avere senso, è cambiare a fine stagione e ripeto, riazzerare per la centesima volta, però questa volta avrebbe fatto sul serio. E certo, ma a partire, ripeto, dai quadri societari, cioè si tratta di capire si tratta di capire dove va il Milan come club, dove va il Milan come proprietà. È una società in cui da un anno, ripeto, da un anno si sta parlando dell'ipotesi di passaggio di metà delle quote del 48%, ripeto, da un anno, perché il primo incontro è proprio di questo periodo, l'anno scorso. Certo, da un anno a questo punto stiamo parlando più o meno di fantasmi. Di cosa si sta, cioè, voglio dire, come si può pensare di fare una programmazione societaria o di avere le idee chiare su chi comanda e chi fa cosa se da un anno si pensa di vendere una quota e di far entrare una quota importante come il 48% e di far entrare un altro senza riuscirci da un anno, peraltro senza riuscirci. Arianna, grazie. Grazie a voi. Grazie, un abbraccio. Arianna Ravelli, Corriere della Sera. Torniamo agli ascoltatori. Sergio da Milano, buongiorno. Buongiorno e grazie per avermi convocato. Grazie a lei. E volevo far notare una cosa che non so se qualcuno ha notato. Ci sono due squadre, il Genova e la Juventus, che hanno una comunità di risultati da non credere. Tutte e due nelle ultime partite hanno sempre ottenuto lo stesso risultato. Sono le uniche che continuano a fare lo stesso risultato. Una vince sempre, l'altra perde sempre. Sono le uniche due di tutta la Serie A. Questa non è male, io non ci avevo pensato. No, sulla Juventus, sul fatto che abbia messo insieme questo filotto mi sorprende poco. Sul Genoa invece sono un po' più sorpreso, anche perché secondo me ha un eccellente allenatore cui ogni anno rivoluzionano la squadra. Visto nel derby, a me è sembrato un Genoa in deficit evidente di talento. Mancava Perotti, che è infortunato, che è sul mercato, che magari andrà alla Roma. Insomma, mi sembra un Genoa fortemente indebolito rispetto alle passate edizioni. Io continuo a non vedere il Genoa a rischio retrocessione, continuo a non vederlo, però è chiaro che deve invertire questo trend e magari provare a regalare una iniezione di talento a Gasperini. Non so se Preziosi è d'accordo. Antonio, provincia di Ferrara, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Io volevo proseguire sul discorso Milan. Premetto che sono un tifoso che segue il Milan ormai da anni, dagli anni di Van Basten, ok? Quindi sono molto appassionato. Niente, io secondo me il problema potrebbe essere questo qua. Il Milan è finito da quando sono partiti i senatori. Senatori secondo me perché il problema sta negli spogliatoi. Lo stesso gesto di ieri del difensore del Milan di... come si chiamava? Insomma, quando Montolivo ha cercato di portare i ragazzi sotto la curva, lo stesso difensore del Milan, quello che giocava nel Paris Saint-Germain, c'è Alex. Alex si è rifiutato. È plateare su molti siti, c'è il video stesso. Quindi si fa vedere che non c'è più quello spirito del senatore che ti dà lo stimolo come un certo Maldini, come un Gattuso, come per ultimo lo stesso Inzaghi, anche se parlando da giocatore. Questa è una delle componenti, è una delle più importanti. Anche lo stesso carattere forte, magari hanno provato con Vlahovic un carattere forte, ma secondo me ci sta provando, ma non lo so, c'è una certa nonchalance. Io non vedo nulla di Mihajlovic nel carattere di questa squadra, non ho mai visto nulla di Mihajlovic nel carattere di questa squadra e continuo a non vederlo. A me sembra la stessa squadra impaurita e, ripeto, depressa che ho visto con Inzaghi, con la doppia gestione Allegri-Seedorf, eccetera, eccetera. Cioè non vedo un qualcosa di diverso, non vedo una luce diversa in questo Milan. E continuo a pensare che quella che lei ha detto, cioè la componente della leadership all'interno dello spogliatoio, sia estremamente importante, ma ancor più importante è questo scollamento che si è verificato ai vertici della società, dove, ripeto, a me sembra una nave senza pilota in questo momento. Vogliamo parlare di sentire una telefonata? Sì? Allora, Eccolo qua ancora. Dimmi, caro. Io sono cambiato, ma Iacchini, oltre che essere mio allenatore, è anche un amico da tanti anni, era il mio capitano nel Venezia, è un ragazzo che stimo, non è più un ragazzo, ma lo stimo come uomo, e naturalmente cerco di lavorare con lui insieme. Non c'è di meglio sul mercato, c'è di meglio sul mercato. Mi puoi dire quel che non diresti mai, anche il fatto che ogni tanto ci ripensi a quella storia e se stai male. Ma Iacchini deve stare tranquillo, io penso che la squadra si salverà e andrà in buone posizioni di classifica grazie al suo lavoro, come è successo l'anno scorso. E va bene così, me ne vado da te, non ti cercherò più, non ti chiamerò più, ti cancello dall'anima. Iacchini aveva una Serie B con un budget stipendi di 40 milioni, e il Carpi è andato in Serie A con un budget stipendi di 6 milioni in Serie B. Questa è la differenza enorme, punto. Per cui non mi preoccupo, il lavoro di Baraldini in campo lo dirà. Io ho lasciato casa Iacchini perché la squadra non stava più giocando a calcio, punto. Sarà difficile per me trovare un'altra come te che sintonizza cuore d'anima. Allora, questo il riassunto delle puntate precedenti, ma il telefono di Zamparini non si scarica mai. Ieri, come ho detto, dopo la sconfitta in casa con la grande Fiorentina di questi tempi, una partita che, nella quale praticamente il Palermo, nonostante il momentaneo 1-2, non è mai entrato, ebbene, dopo questa partita, Zamparini: pronto Ballardini, stai a casa, sei licenziato, mette giù, riprende il telefono, tu. Giuseppe Iacchini, senti, per favore, puoi tornare? Torna a casa, torna da noi, torna sulla nostra panchina. Sì, mister, però, presidente, io torno, però, insomma, che cosa mi prende sul mercato? Perché così è difficile. Mercato? Mercato lo faccio io. No, aspetta, stai lì dove sei. Mette giù, tu. Ballardini, siamo finta di niente, torna ad allenare. L'esonero più veloce della storia del calcio, credo. Luca Marchetti, buongiorno. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Mica male questa, eh? No, direi di no. Un bel colpo di scena è stato. Ma come va a finire? Non l'aveva mai fatto finora. No, questa gli mancava. Ma come finisce? Finirà comunque con Iacchini che torna sulla panchina. Mercato o non mercato, no? Guarda, per quanto possa contare la mia opinione, io ieri sera mi sono fatto quest'idea che Ballardini adesso fa l'allenamento, magari farà anche la prossima partita, magari io gli auguro anche che le cose vadano bene, perché alla fine noi scherziamo, per loro è lavoro. Certo. Non vorrei che una volta finito il mercato, quando Iacchini non potrà più chiedere qualcosa a qualcuno, parte la telefonata, Ballardini sta a casa, Iacchini torna perché c'è il contratto, eh? Esatto. Però è un mal pensiero, però ieri mi è venuto in mente questo, sì, può stare anche come cosa. Come no. Luca, invece, altro allenatore che balla e traballa Garcia. Beh, c'è Roma-Milan, ne ballano in due, prima sentivo che parlavate di Milan, ballano entrambi, è una partita complicatissima per tutti e due. La situazione in casa Milan forse è più pesante che in casa Roma, perlomeno a voler interpretare le parole, anzi i silenzi. Quando al Milan non parlano significa che riflettono, e se rifletti sulla posizione dell'allenatore significa che stai seriamente prendendo in considerazione la possibilità di cambiare Mihajlovic. Sì. Ma tu quali ipotesi vedi in caso di cambio? Quali ipotesi vedi in caso di cambio di Mihajlovic? Può essere corretta di Brocchi. Sì. Traghettatore, sì. Quindi. Sì, che sarebbe peraltro l'ennesimo di fatto, perché anche lo scorso anno di fatto Inzaghi è stato il traghettatore di se stesso, perché ormai a un certo punto della stagione era completamente esautorato. Se dovesse cadere a Roma Mihajlovic, cade un altro anno per il Milan di fatto, per questa ricostruzione, peraltro in un anno in cui comunque il Milan sul mercato, almeno in estate, ha investito. Quindi non è più una scusante il fatto di non avere i soldi a disposizione per fare mercato. Quindi la riflessione in casa rossonera forse dovrà essere ancora più profonda, e forse è per questo anche che non si parla più, perché a questo punto le responsabilità sono nel corso degli anni condivise non solo fra gli allenatori ma anche fra i dirigenti, credo che tutto sommato ne abbiamo parlato in questi mesi in maniera anche abbastanza approfondita, però probabilmente ci vuole una ricostruzione completa, cioè non bastano più degli innesti, potrebbe fare quello che ha fatto l'Inter, cambiare completamente la rosa. Poi alla fine, Luca, io resto convinto del fatto che l'Inter abbia trovato l'uomo giusto in Roberto Mancini, che è se stesso, è quello che era Mourinho grosso modo quando era lì, e cioè l'uomo che tutto fa e tutto decide, il cui telefono con quello di Zamparini non si spegne mai, ma in un'ottica differente. Cioè mi sembra che Mancini stia facendo molto di più rispetto all'allenatore. Io credo che l'esperienza in Inghilterra sia stata assolutamente importante, perché sì, poi certo. Lì tu fai il manager a 360 gradi, qui diciamo che l'accoppiata di mercato Mancini e Ausilio ha funzionato alla grandissima, perché gli obiettivi che ha individuato l'allenatore con il contributo dell'allenatore sono stati presi, in più c'è stata anche una campagna cessioni importante, perché alla fine l'Inter è riuscita anche a vendere bene, perché sì, una volta che vendi Kovacic e Hernanes sei riuscito a fare un mercato anche senza distanguarti. Certo, questo è sacrosanto. Luca, invece, l'altro allenatore che continua a camminare sul filo, dicevamo, è Garcia. Non si può fare sta vita, però. Non si può vivere costantemente sul filo. D'altra parte, la Roma è una squadra, vista anche ieri a Verona, totalmente nevrotica. Sì, e purtroppo gli allenatori dipendono dai risultati. E le società sono le prime a lasciar trasparire il concetto. Vediamo come va la prossima, se la vince rimane. Non si può mica campare così, però. Però allora bisognerebbe avere il coraggio di dire finito un ciclo. Credo che questa sia la cosa più difficile da dire un po' per tutti, perché lo stesso Sabatini in prima persona ci ha messo la faccia e questo gliene va dato atto. Se va a casa Garcia dobbiamo andare a casa tutti, sì. Perché è stato un progetto condiviso. È una bella assunzione di responsabilità, però significa che prima di mandar via l'allenatore ce ne vuole. Posto che l'allenatore anche in questo caso possa essere l'unico e principale responsabile, no, i tifosi della Roma li sento molto arrabbiati sulla gestione tecnica di Garcia, ha delle giustificazioni, ha anche delle colpe, questo mi pare inevitabile. Sai, è una fase difensiva che definire orripilante è un pallido eufemismo, secondo me. Sì, però se poi guardi la formazione di ieri con tutte quelle assenze a centrocampo, ma la scusante delle assenze, l'alibi delle assenze di ieri, poi dopo nel contesto di una stagione, fino a ieri pomeriggio la Roma era a 4 punti dal primo posto e agli ottavi di Champions, se guardiamo soltanto i numeri, se poi guardiamo il discorso del gioco, chiaramente potremmo fare mille critiche. Io guardo anche a un altro numero, che è quello dei gol subiti, sia in campionato che in Champions, e sinceramente così non fai molta strada, anche perché, ripeto, mi sembra una squadra, come il suo allenatore, sempre sull'orlo di una crisi di nervi. Tu dai credito alla tesi di chi dice Garcia fino alla fine della stagione verrà magari obtorto collo tenuto perché c'è già il sì di Conte? No, perché non credo che il sì di Conte ci sia già, e credo che in una situazione già difficile come quella che stanno vivendo a Roma dovesse arrivare un altro risultato negativo, peraltro in casa col Milan, diventerebbe la pressione molto forte da dover gestire. Di nomi se ne sono stati fatti tanti. A quel punto la Roma, lo stiamo dicendo da un po' di tempo, vorrebbe tenersi le mani libere per giugno per poter scegliere l'allenatore eventualmente della prossima stagione con calma. Potrebbe dover rivedere questo tipo di situazione e quindi andare a prendere adesso l'allenatore per l'anno prossimo, certo. Che probabilmente non sarebbe stata la prima scelta di giugno. Certo. Detto questo, per esempio Spalletti è un ottimo allenatore, se fa il contratto anche per i prossimi anni non è che prendi un brocco, ecco. No, questo è chiaro, infatti è il nome più gettonato da quelle parti. Luca, ti ringrazio, a prestissimo per parlare di mercato e oltre. Luca Marchetti da Sky. Chiudiamo con Marco della provincia di Varese invece. Buongiorno Marco. Sì, buongiorno, grazie della convocazione. Grazie a lei. Allora, io sono un milanista. Prima, mi spiace per lei. Il primo Milan che ho visto è stato con mio papà nel 1968. 68. Le ho viste praticamente tutte. Sì. Io a questo punto, la mia idea è questa. Il problema del Milan ha un nome e un cognome. Silvio Berlusconi. Ci ha portato sul tetto del mondo, ecco, ok. Però adesso si sta comportando come il bambino che ha usato un giocattolo si è divertito, gli è piaciuto. Sì, l'ha anche adesso pagato un sacco di soldi. Più. L'ha usato, l'ha pagato un sacco di soldi. Benissimo, non lo utilizza più, però piuttosto che darlo a un altro bambino lo distrugge. Si sta comportando nello stesso modo in politica. Lui ha creato Forza Italia, lui la distrugge prima. Finché il suo nome non verrà da parte della tifoseria preso come primo causa di questo Milan, lui non cederà. Ci porterà, non dico in Serie B, ma galleggeremo in questa melassa malsana fin tanto che smetterà di dar la colpa a Mihajlovic, ai giocatori, a Gagliani. Quindi lui, il senso è dopo, il senso è dopo di me il diluvio. Questo è il senso del pensiero di Marco della provincia di Varese. Insomma, in parte anche condivisibile, forse un po' estremistico, ma in parte condivisibile. Ho l'impressione che parleremo anche nei prossimi giorni, intanto chiudiamo qui. Grazie Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia e Federico Bindi in redazione. Ci sentiamo domani alle 2, ciao a tutti. Perciò sai che vi dico, passate una bella serata, lupi lupi sono finiti, forse i tempi cupi, ciao!